Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pronto soccorso a corto di medici anche per i numerosi licenziamenti e i giovani laureati sono sempre meno interessati alle specializzazioni in medicina d'urgenza e anestesia. A 3 mesi dalle regionali tra PD e 5 Stelle si alza un muro, 2 duri comunicati chiudono ogni spiraglio di convergenza ed è rottura, almeno per ora. Il bilancio di Confartigianato sull'anno che sta per chiudersi, nonostante siano tante le imprese che non hanno retto la pandemia e caro energia, il saldo è positivo. Via libera regionale per la chiusura della contestata discarica di Pecol dei Lupi a Cormons. Non arriveranno più nuovi rifiuti e saranno coperti quelli presenti da anni. In arrivo all'Università di Trieste un maxi finanziamento di oltre 4 milioni di euro serviranno ad acquistare nuove strumentazioni per i laboratori scientifici. Udine attende per gennaio 3 autobus di nuova generazione acquistati con i fondi del PNRR. Diventerà la prima città della regione a usare mezzi pubblici completamente elettrici. Caro bollette, approvato dalla Giunta il progetto di un impianto fotovoltaico sul tetto del palamostre di Udine per poter tenere aperta la piscina. Quella di via Pradamano si potrà frequentare fino a maggio. Ultimata a Pordenone la nuova sede che ospita i giudici di pace, ma da gennaio partiranno altri lavori per il rinnovamento dell'edificio del tribunale. Consegnato il San Giusto d'oro al cardiologo Gianfranco Sinagra, un riconoscimento che sancisce tra l'altro un profondo legame con Trieste che dura da 35 anni. Il ricordo di Don Luciano Padovese, protagonista del panorama culturale della destra Tagliamento e interprete autentico del movimento cristiano e sociale. Il coro più famoso d'America è l'Harlem Gospel Choir in regione, tutto esaurito per questa sera al San Giovanni da Udine, domani la tappa al Rossetti di Trieste. Le 7:20 minuti, buongiorno da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è da variabile a nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 7 gradi, Gorizia 4,5, Udine 2, Pordenone 1 grado, Tolmezzo 0, Tarvisio 5 decimi di grado sotto 0, Forni di Sopra meno 1, Piancavallo meno 2,5, Monte Zoncolan 0 gradi, Monte Lussari 1. Lignano 5 grado 6,5. Le previsioni oggi sulla fascia orientale di pianura e costa: cielo in prevalenza coperto con possibili piovigine o deboli piogge, più probabili su Isontino, Trieste e Carso, dove potranno essere moderate o abbondanti e sarà possibile anche foschia o nebbia. Sulle altre zone, specie sui settori più interni, cielo variabile e nuvoloso con possibile vento moderato da sud-ovest in quota su Alpi e Prealpi Giulia. In apertura la sanità con la carenza di medici che si fa sempre più preoccupante. Molti si sono licenziati dalle strutture pubbliche di emergenza e urgenza per le condizioni di sempre maggiore difficoltà in cui si sono trovati ad operare, soprattutto con il periodo della pandemia. Non va meglio con i bandi per le specializzazioni più delicate, dall'emergenza alla rianimazione, bandi che quest'anno sono andati quasi deserti. La fuga dei giovani medici dai reparti più difficili si vede anche in Friuli Venezia Giulia. Impietosi i numeri dalle borse di specializzazione bandite quest'anno dalle 2 università regionali. Per la medicina di emergenza e urgenza, che forma i camici bianchi destinati a pronto soccorso, oggi in grossa difficoltà, su 39 posti a disposizione le borse assegnate sono state appena 7. Buchi si registrano anche in anestesia e rianimazione, fondamentale per le operazioni, in chirurgia generale e in malattie infettive, tra gli altri. Fino a qualche anno fa le borse di specializzazione erano un collo di bottiglia, oggi no. I numeri sono stati aumentati dopo il Covid da Ministero e Regione, ma si sconta una scarsa attrattività, specie dopo la pandemia. C'è preoccupazione, va ripensato il sistema, va fatto un ragionamento su condizioni di lavoro e retribuzioni, dice il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Non tutti i neolaureati corrono a specializzarsi oggi perché molte cooperative offrono loro prestazioni a gettone a 100 euro l'ora. Con 3 turni si guadagna al netto quanto si riceve con una borsa di specializzazione, circa 1.800 euro. Si può pensare di assumerli con un vero contratto da medico già dal primo anno, dice Massimiliano Tosto, segretario regionale di Anaassomed, il sindacato che ha lanciato l'allarme a livello nazionale. Altro tema è che dal momento che la scelta è vasta, si prediligono quelle specializzazioni che offrono turni meno stressanti e la possibilità di lavorare in libera professione, quindi di guadagnare di più. È un'istantanea drammatica. La qualità della vita e le condizioni contrattuali disincentivano i giovani a intraprendere certi percorsi, sostiene Alberto Peratoner, segretario regionale di Aroe EMAC, che raggruppa anestesisti, rianimatori e medici dell'emergenza. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Entra nel vivo la corsa verso le elezioni regionali del prossimo anno, con una polemica al calor bianco del Movimento 5 Stelle nei confronti del Partito Democratico. Ancora una volta l'azione politica del PD si caratterizza per arroganza e illogicità, si legge in una nota dei 5 Stelle firmata dal coordinatore regionale Luca Sut, dal senatore Stefano Patuanelli e dai consiglieri regionali Capozzella, Dalzovo, Sergo e Ussai. Abbiamo posto sul tavolo alcuni punti di un programma per noi imprescindibili, sottolineando come sia impossibile per il Movimento 5 Stelle dialogare col terzo polo che in regione e in Parlamento ammicca al centrodestra. La risposta del PD è stata la convocazione di un tavolo di campo largo a cui non parteciperemo, dicono i pentastellati. Immediata la risposta del segretario regionale dei Dem, Renzo Liva. I 5 Stelle saranno la stampella di Fedriga, liberi di farlo, ma si prendano le loro responsabilità. Abbiamo chiarito che non poniamo né devono essere poste pregiudiziali. I 5 Stelle ne pongono subito più di una. Non andiamo avanti, noi andiamo avanti e lavoriamo con chi ci sta, chi non c'è. Chi non c'è sbaglia. A Cormons la discarica di Peccol dei Lupi è destinata alla chiusura, è arrivato infatti l'ok in questo senso da parte della regione. Il primo passo sarà la pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori. Dalla regione arriva l'autorizzazione integrata ambientale che traccia il percorso di chiusura della discarica di Peccol dei Lupi a Cormons e lo fa senza prevedere l'apporto di nuovi rifiuti, con una soluzione che supera alcune perplessità emerse in passato. Quanto ai tempi, il cronoprogramma indica una durata dei lavori di 41 mesi. L'AIA mette dunque una parola definitiva su una vicenda lunga e complessa. Dopo 17 anni, spiega l'amministratore giudiziario del sito Luigi Palumbo, si arriva a una soluzione che non prevede l'abbancamento di nuovi rifiuti e questo è un aspetto fondamentale. Si procederà con la movimentazione del lotto 1, la collina Brandolin, che sarà impiegato per ricoprire l'avvallamento del lotto 2. Il prossimo passo verso la chiusura del sito sarà la pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Cormons Roberto Felcaro, che in passato aveva frenato sull'operazione. Le perplessità sono state superate nella scorsa primavera, quando i carotaggi effettuati hanno escluso la possibilità di rischi per l'ambiente derivanti dallo spostamento dei rifiuti. Sicuramente è un risultato importante per il nostro comune, commenta, dopo le vicissitudini di questo sito che si sono protratte per decenni. Dalle perizie effettuate nello scorso mese di aprile sono emersi elementi nuovi che ci hanno indotto ad approvare la soluzione che prevede lo spostamento della collina Brandolin, che a questo punto appare come l'opzione più vantaggiosa, una volta esclusi possibili rischi legati alla pericolosità dei materiali e alla stabilità del sito. Cormons, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche nel 2022 le imprese artigiane in Friuli hanno retto nonostante i duri colpi inferti dalla pandemia e poi dal caro prezzi. Il bilancio è positivo, come ci spiega il presidente provinciale, da qualche settimana anche regionale, Graziano Tilatti, che oggi farà il punto sulla demografia delle imprese artigiane nella sede di Confartigianato Imprese Udine alle 11. Ha degli aspetti meno traumatici di quanto c'era apparso da una prima analisi. Noi abbiamo la speranza che volga verso la positività. Stiamo attendendo alcune analisi, ma credo che questi dati ci saranno una sorpresa per tutti. Quali sono le prospettive per il nuovo anno? In prima fila il sostegno alle aziende colpite dalla pandemia, immagino. Noi chiediamo un'attenzione particolare col decreto aiuti 4 e anche con le misure che saranno poste in campo, cioè la possibilità di ristrutturare i finanziamenti concessi post-Covid, ristrutturazione o allungamento dei termini di pagamento dei contributi sospesi sempre dell'anno del Covid e che pensiamo che una possibilità di un accesso al credito ancora con le garanzie del medio credito. Tutto questo per permettere di superare anche l'ulteriore emergenza che è quella del caro bollette. Lei è stato appena nominato anche presidente regionale di Confartigianato e ha già detto che si metterà a lavorare sulla riorganizzazione. Il modello che sarà l'obiettivo dei prossimi anni, quello della condivisione dei servizi e la centralizzazione delle attività sindacali, cioè questo anche in conseguenza delle variate necessità, e quindi tenendo sempre in grossa considerazione il territorio, ma valorizzando le sinergie per dare una proiezione alle piccole imprese. All'Università di Trieste sono in arrivo 4 milioni di euro di finanziamenti, mai così tanti prima d'ora per i laboratori scientifici. I fondi serviranno ad acquistare nuove strumentazioni di valore compreso tra i 10.000 e i 400.000 euro. Delle 49 proposte di finanziamento che erano pervenute all'Università ne sono state accolte 22, che riceveranno quindi le coperture economiche per la dotazione delle strumentazioni necessarie. Alcuni esempi: la camera anecoica, un ambiente schermato da interferenze esterne in grado di assorbire onde riflesse generate al suo interno, la cui applicazione spazia dalla robotica alle telecomunicazioni, o ancora il sequenziatore di acidi nucleici, che permette di definire con precisione la sequenza delle basi che costituiscono il DNA e serve per la ricerca genomica in ambito medico. Infine l'aerosol jet printing, una tecnologia che permette di stampare tracce o creare strutture tridimensionali in modo molto preciso e dettagliato su praticamente qualunque oggetto, utilizzando i più svariati materiali, metalli, polimeri, composti chimici e biologici. Udine sarà la prima città del Friuli Venezia Giulia a usare autobus urbani elettrici. Il mese prossimo sono in arrivo i primi 3 esemplari finanziati con fondi del PNRR. Entreranno in servizio a Udine il prossimo 9 gennaio i 3 nuovi bus urbani full electric presentati in Piazza della Libertà. I mezzi di ultima generazione offrono 52 posti, di cui 21 a sedere, oltre alla postazione per le persone con disabilità motoria. Faranno del capoluogo friulano la prima città in regione dotata di mezzi full electric. Anche i nuovi bus sono dotati di sistema di segnalazione pericolo collisione, sistema automatico di spegnimento degli incendi nei vani elettrici e batterie, telecamere interne ed esterne per la videosorveglianza di bordo. I 3 mezzi, finanziati grazie all'azione della Regione del Friuli Venezia Giulia attraverso i fondi del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, opereranno sulla nuova linea circolare del centro storico, un nuovo passo, quello di Arriva Udine, verso la transizione ecologica. Angelo Costa, presidente di Arriva Udine. Avranno un'autonomia superiore ai 200 km, questo consente di fare il servizio giornaliero con poi una ricarica notturna. Udine ha un servizio molto diffuso, soprattutto sull'extraurbano, e quindi chiaramente sull'extraurbano stiamo individuando anche altre soluzioni, come abbiamo già fatto dall'anno scorso con l'introduzione di mezzi a gas naturale compresso, per i quali stiamo anche guardando a forniture da biometano. 45 corse giornaliere dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle 9 alle 20, con una frequenza di 1 ogni 15 minuti. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo a Udine con i lavori della giunta comunale. Si è parlato della nuova zona pedonale ZTL in centro e delle misure per riuscire a tenere aperta la piscina per mostre. La piscina, che doveva chiudere per il caro bollette, resiste. L'altra inizierà a produrre energia. È stato approvato dalla Giunta Comunale di Udine il progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 60 kW sul tetto del polo natatorio Palamostre di Via Ampezzo. Grazie a un contributo chiesto dal municipio alla regione in ottobre, arriveranno 221.000 euro su un quadro economico totale di 250.000 euro. La giunta ha deciso inoltre di prolungare l'apertura fino a maggio dell'altro impianto, più piccolo, di via Pradamano. Il comune aveva deciso di tenere aperta la piscina per salvaguardare un servizio utilizzato dalle fasce più sensibili della popolazione, tra cui persone con disabilità. 3 mesi fa rischiava infatti di chiudere a causa degli aumenti delle bollette del gas. Da gennaio aumenterà del 10% il biglietto per fare fronte ai maggiori costi di gestione. L'amministrazione comunale ha inoltre varato i disciplinari che regoleranno chi potrà circolare nella nuova zona pedonale e zona traffico limitato del centro, definendo le tipologie di permessi, aree e fasce temporali per il carico e scarico. Inizierà ora una fase di 3 mesi con il ritiro dei vecchi permessi e l'emissione di quelli nuovi e di informazione alla cittadinanza. L'accensione delle telecamere sarà accompagnata da un periodo di tolleranza di 1 mese. Verosimilmente non avverrà prima delle elezioni in primavera e della adunata degli alpini di maggio. Il limite massimo per l'entrata a regime è fissato al 30 giugno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi si riunisce il Consiglio Comunale di Trieste. Tra i temi all'ordine del giorno, l'accesso nord alla mobilità turistica. Si parla della variante numero 12 al piano regolatore generale del comune. Quest'anno il San Giusto d'Oro è andato al cardiologo Gianfranco Sinagra, un riconoscimento che sancisce anche un profondo legame con Trieste che dura da 35 anni. È il più importante riconoscimento che la vita mi ha dato. È con queste parole che il professor Gianfranco Sinagra, luminare di cardiologia a Trieste, ha ricevuto il San Giusto d'Oro, il premio annuale di Assostampa Friuli Venezia Giulia e cronisti giuliani, riservato alle personalità che danno lustro alla città di Trieste, quest'anno tornato a dicembre. La storia di Sinagra è quella di un figlio del sud. Laureato in medicina a Palermo a soli 23 anni, si è poi trasferito nella città giuliana spinto dall'ansia di conoscere e attratto dalla personalità del professor Camerini, anche lui insignito del San Giusto d'Oro nell'86. Il premio è stato per Sinagra occasione di comporre ricordi e rievocare gratitudini, dice, ma non solo. Sancisce e rinforza il mio amore per la città che dura ormai da 35 anni. Una città da cui il professore ha avuto tanto, ma cui ha anche dato tanto. È una bella storia di crescita personale, ma anche di incontri, di esperienze e di accrescimento di conoscenza. Con il San Giusto d'Oro è stata conferita una targa alla memoria di Omar Monestier, direttore del Piccolo del Messaggero Veneto, scomparso quest'anno a 57 anni. La targa è stata ritirata dalla moglie in mezzo ad applausi commossi. Furio Baldassi, del gruppo Cronisti, ha ricordato di Monestier l'amore per il giornalismo e l'impegno continuo nel mestiere, che lo aveva portato al vertice di due quotidiani. Triestini non solo si nasce, ma si diventa, ha detto, e sono convinto che se la sua esistenza terrena non fosse stata stroncata così improvvisamente, anche Omar Monestier sarebbe diventato uno di noi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A quasi 90 anni è morto Don Luciano Padovese, personalità di primo piano nel panorama culturale della destra Tagliamento e interprete autentico del movimento cristiano e sociale. Le competenze di Don Luciano Padovese spaziavano su diversi ambiti, religioso, artistico, culturale, socio-economico, politico, ma è inevitabile associare il sacerdote morto alla soglia dei 90 anni alla Casa dello Studente di Pordenone. Luogo di aggregazione prima di tutto, di confronto, di formazione, dalla fine degli anni 60 in poi, era l'onda lunga del Concilio che generò una stagione irripetibile. Giovanni Mauro della Torre, ora delegato diocesano per la cultura, allora giovane frequentatore della Casa dello Studente. Lì trovavamo l'occasione di confronto, di riflessione, attraverso tanti stimoli, tante persone che venivano invitate da Don Luciano, e lì respiravamo quella libertà creativa e anche di riflessione che poi ha lasciato un segno indelebile in tantissimi di noi. Un luogo di aggregazione per migliaia di giovani, aperto a tutti e frequentato da credenti e non credenti. Non era tanto un timbro di tipo ecclesiale specifico, come può essere una parrocchia, ma un ambiente dove poi ognuno si collocava dove riteneva più opportuno, ma che rifletteva e pensava, dentro anche una proposta di pensiero cristiano. Ma la storia di Don Luciano non si può fermare alla sola Casa dello Studente. Docente nel seminario di Pordenone di diritto canonico e di morale, faceva parte di quella che potremmo definire una scuola spirituale che metteva la persona al centro. Fu anche giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, direttore del periodico Il Momento, con il quale hanno mosso i primi passi giornalisti che poi hanno avuto una carriera brillante per tutti Roberto Reale e Giuseppe Ragogna, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pordenone, autore di numerosissime pubblicazioni non solo in campo religioso, si cimentò persino in opere teatrali. Le sue omelie alla messa serale nella chiesa di San Giorgio, sempre affollatissima, erano brevi e coinvolgenti lezioni di morale. Non è diventato vescovo, ma ha avuto un peso determinante nella crescita culturale di una città da poco diventata capoluogo di provincia. Pordenone, Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Si inaugurano oggi 12 alloggi del nuovo compendio immobiliare dell'Ater di Udine di via Paolo Borsellino a Gemona del Friuli, che potrà ospitare fino a 44 persone. Il condominio, ultimato di recente, sorge in un'area dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine che, in parte, ancora prima del terremoto del 76, ospitava alcuni alloggi di edilizia residenziale poi trasferiti altrove e che torna dunque alla sua vecchia destinazione. Il taglio del nastro si terrà alle 11.30 in presenza delle autorità comunali e regionali. A Pordenone è stata ultimata la nuova sede che ospita i giudici di pace e da gennaio partiranno altri lavori per il rinnovamento dell'edificio del Tribunale. Una nuova sede per i giudici di pace a Pordenone, un edificio moderno ed efficiente vicino al Tribunale, opera da 2,5 milioni di euro a lungo attesa e finanziata dal Comune con fondi europei e ministeriali. Ospita due giudici di pace con altri tre in arrivo. Il presidente del Tribunale di Pordenone, Lanfranco Tenaglia. È un edificio all'avanguardia dal punto di vista ambientale e dell'efficienza energetica, autonomo, completamente cablato. Ospita già da una settimana gli uffici del giudice di pace, le cancellerie della volontaria giurisdizione, gli sportelli di prossimità per l'amministrazione di sostegno ed altri uffici del tribunale. Questo è uno dei tanti passi che stiamo facendo per rendere a Pordenone efficiente la giustizia. A gennaio sono in partenza altri lavori al Tribunale, messa a norma degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche per altri 2 milioni di euro. C'è una buona notizia per l'organico della magistratura. Con la pubblicazione di due nuovi bandi, l'organico andrebbe al completo. Nota dolente resta il personale amministrativo, con una scopertura di oltre il 30%. Ancora Tenaglia. Siamo il tribunale in Italia che ha la più alta scopertura di organico di funzionari PNRR per la giustizia. Siamo al 75% della scopertura d'organico, ma anche per altri concorsi c'è stato lo stesso fenomeno. Chiediamo alla politica di pensare delle soluzioni che evitino in prospettiva una grave paralisi per la giustizia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sempre a Pordenone, il Comune ha indetto due nuovi concorsi pubblici per esami per la copertura di 8 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, e di un posto di istruttore socio-educativo, sempre categoria C, posizione economica C1. La domanda va inviata esclusivamente per via telematica entro le 18 del giorno 16 gennaio 2023, utilizzando l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.comune.pordenone.it, sezione concorsi e selezioni. Sarà il nuovo calendario 2023 delle ragazze del primo 900 più 1 a scaldare l'atmosfera di Natale alla storica società operaia di Pordenone, dove in occasione del tradizionale ritrovo per lo scambio degli auguri alle 17.30 è in programma la presentazione del progetto collettivo che vede protagonista il gruppo di signore, più l'unico uomo per ora iscritto, che partecipano ai laboratori per l'invecchiamento attivo del punto ascolto anziani. Il calendario non raccoglie soltanto fotografie di anziani, ma un'interpretazione della vita quotidiana accompagnata da alcuni aforismi che gli stessi hanno scelto di recitare. L'ANOS Udine donerà in occasione del Natale all'unità segnologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia una lampada specifica per la sala operatoria. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà alle 20.45 al Palamostre durante la serata Un dono per un sorriso, serata di danza contemporanea. E Daniela Dado, il nuovo presidente del Conservatorio di Musica di Trieste. Il decreto di nomina è stato firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Dado prende il posto di Lorenzo Capaldo. Obiettivo del ministero è valorizzare questi luoghi di eccellenza, competitivi e attrattivi, forti della nostra e sempre più consapevoli della nostra bravura, ha dichiarato la ministra dando il suo via libera al provvedimento. Il coro più famoso d'America, l'Harlem Gospel Choir, fa due tappe regionali, tutto esaurito per questa sera al San Giovanni da Udine, mentre c'è ancora qualche posto per la tappa di domani a Rossetti di Trieste. Da più di 30 anni sulle scene di tutto il mondo, fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l'Harlem Gospel Choir è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle chiese nere di Harlem e di New York. È l'unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, due presidenti degli Stati Uniti d'America, Carter e Obama, la famiglia reale, Nelson Mandela, e ha collaborato con vere e proprie superstar mondiali. Il nuovo show li vedrà cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz e blues, con qualche incursione del pop. Poi ci sarà anche un emozionante tributo a Nina Simone, icona della musica americana che, tramite il suo talento, ha trasmesso messaggi di liberazione, passione ed amore. Profondamente radicata nella storia della schiavitù africana in America, il gospel ha cambiato per sempre la musica per come era conosciuta. Blues, rock and roll e soul, tutti hanno origine dal gospel nero. Una notizia di sport: turno infrasettimanale per il campionato di A2 di basket. Questa sera la Gesteco Cividale giocherà a Chieti. La partita avrà inizio alle 21. Domani l'APU Udine ospiterà Ferrara. E alle 7.43 cominciamo la rassegna stampa. Incominciamo dal Piccolo di Trieste. L'apertura è per il maxi finanziamento all'Università di Trieste, di cui abbiamo parlato nella prima parte di questa edizione. Titolo: dal DNA al 6G, l'Università finanzia il futuro. Strumentazioni all'avanguardia nei laboratori di ricerca, spesa totale di 4.600.000 euro. Nella parte alta della prima pagina una grande foto con dei manichini che indossano abiti dello stilista Renato Balestra. Titolo: l'omaggio di Trieste a Balestra. Omaggio previsto con una manifestazione in calendario il prossimo anno per ricordare lo stilista nato in questa città. Accanto il voto in regione, mai con Renzi e Calenda. I 5 Stelle chiudono al patto con il PD. Dal colonnino di cronaca, tensione in consiglio sulla cabinovia, espulsi Russo e Barbo. San Giusto d'Oro 2022, il premio a Sinagra nel ricordo di Monestier. Dal Piccolo di Gorizia, il titolo principale, pronto soccorso, la gara va deserta, il progetto resta, si parla della ristrutturazione del reparto di pronto soccorso. Per avviare la procedura c'era bisogno di due offerte per ciascun polo sanitario. Ora l'affidamento diretto. Sopra lo scambio a scuola dei doni usati è il titolo della grande fotonotizia in prima pagina. Si tratta di un'iniziativa che si è tenuta a Pieris e che promuove il riciclo. Dal colonnino di cronaca, casa Mazzoli pronta a giugno, alloggi per giovani e anziani. E poi agricoltore morì travolto dal voltafieno, due condanne. Il Messaggero Veneto sceglie lo stesso titolo per le due edizioni del Friuli di Pordenone: stop ai cellulari in classe, circolare del Ministero. I presidi friulani commentano: non è una novità, il divieto c'è già. Nell'edizione del Friuli la fotonotizia a centropagina è dedicata ai bus elettrici che arrivano a gennaio. Udine è la prima a impiegare i nuovi veicoli. I titoletti di cronaca nel colonnino: leggiamo, le regole di accesso alla ZTL di Udine, prorogati i permessi, poi i sindacati protestano per le lunghe attese al pronto soccorso e poi lo minacciarono per il monopattino, condannati per rapina. Leggiamo il dorso del Messaggero Veneto nell'edizione di Pordenone: la fotonotizia è dedicata a Monsignor Padovese, che venerdì avrebbe compiuto 90 anni, poi c'è la cronaca, una sede universitaria in centro per attrarre nuovi corsi e iscritti, il tema del capocronaca all'interno del giornale. Tre ipotesi di lavoro: la casa dello studente, la sede di via Bertossi e il centro direzionale Galvani. Altri titoletti di cronaca: dalla prima, la storia del parrucchiere solidale che vuole aiutare il Cro di Aviano, e poi assegnate a Cavallini, Celante e Fabbro le stelle di Natale 2022. Nelle pagine interne, l'economia con l'operazione di Hera che insedia il Friuli. HSE, nuovo colosso dei servizi energetici, la multi-utility avvia l'integrazione tra le società ASE e HSE, nasce la più grande ESCO del paese rivolta a imprese e pubbliche amministrazioni. E siamo al Gazzettino, anche qui la prima pagina dell'inserto dedicato al Friuli e la prima dell'inserto dedicato a Pordenone aprono con lo stesso tema, e cioè caserme rurali contro gli incendi. Entro il 2024 un nuovo presidio dei pompieri a tutela delle aree di montagna difficili da raggiungere velocemente. La località in cui sorgerà la nuova sede non è stata individuata. In ballo ci sono Alto Friuli e Parco delle Dolomiti. Dal Gazzettino del Friuli, uccide la moglie, chiede di andare subito a processo. Paolo Castellani, che è accusato della morte di Elisabetta Molaro, ha chiesto un processo rapido e ha rinunciato all'udienza preliminare. La fotonotizia, il calendario dell'arma, adesso parla friulano, e la fotografia della presentazione del calendario. Da Udine, raffica di incidenti, 6 persone ferite. Sottoscritto l'accordo per i lavoratori della sanità. Sotto invece per lo sport, Messi friulano tra virgolette tra premi e dieta perché sarebbe stato in cura da un medico di Sacile. A fianco coppa con la Marcord Cantù Old Wild West. Dalla prima dell'inserto di Pordenone, scintille e offese, il consiglio dice sì al grattacielo. Qui la grande fotonotizia è per il calendario degli over 70, di cui abbiamo già parlato. Da Fontana Fredda, si sente male sul tetto, muore operaio di 44 anni. Da Brugnera, furti nelle case durante la finale dei mondiali. Sotto per lo sport, il doppio ex Rossitto carica i ramarri. Accanto ciclocross, Cafueri e campione regionale. E sulla prima pagina del Corriere della Sera leggiamo un titoletto dedicato al caso Resinovic. Il titolo è questo: mia sorella non fu suicidio, lei voleva rifarsi una vita. Il giornalista Agostino Gramigna riporta poi a pagina 26 all'interno del giornale la testimonianza del fratello Sergio, che conferma che la sorella voleva andare a vivere con un altro uomo, Claudio Sterpin. Questi le avrebbe confermato l'intenzione di rifarsi una vita con Liliana dopo la morte della moglie, avvenuta un anno prima. Ancora qualche appuntamento. Quem vidistis pastores, il Natale tra tradizione e modernità, il titolo del concerto che il complesso vocale strumentale Gruppo Incontro terrà alle 20 nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso in piazza Ortis a Trieste. Nel repertorio anche due importanti musicisti triestini, Giampaolo Coral e Marco Sofianopulo. Il concerto rientra nella rassegna Nativitas 2022 organizzata da lui. Regionale. Nella conferenza dal titolo Esopianeti, la ricerca di nuovi mondi al di fuori dal sistema solare, l'astrofisico Marco Margini, è del Centro Studi Astronomici Antares Trieste, esporrà la complessità di questo campo di ricerca usando un linguaggio adatto a tutti, esponendo i metodi usati al giorno d'oggi per scovare gli esopianeti. Al Civico Museo di Storia Naturale di Trieste alle 17. Si chiama Perché tutto doveva cambiare, storie della meglio gioventù sui sentieri che ancora ricordano, e la guida escursionistica partigiana che intreccia la scoperta della natura delle prealpi friulane alla storia che ebbe come scenario quei luoghi negli anni 40 del Novecento. Il libro, primo nel suo genere in regione e fresco di stampa, sarà presentato alle 18:30 al Centro Virginia Tonelli a Paludea di Castelnuovo del Friuli. Proseguono a Palazzo Mantica Udine le iniziative del Natale alla Filologica promosse dalla Società Filologica Friulana. Enos Costantini presenterà alle 18 insieme a Giampaolo Gri e Armando Mucchino la nuova edizione del volume Cevitis Tai Chams, ampliata con nuovi corsivi che, sempre con l'ironia tipica dell'autore, trattano vizi, drammi, virtù e potenzialità dell'agricoltura friulana. Il Minimum Museo dei Bambini di Trieste propone il dialogo con Peppe Dell'Acqua dal titolo Da Marco Cavallo alla legge 180, un percorso per il terzo paradiso, primo appuntamento verso un progetto di laboratorio di carrozzeria integrata ispirato da Marco Cavallo. L'incontro avverrà in sala mostre con l'allestimento in progress del bosco tattile e sonoro realizzato dai bambini e dalle famiglie in visita o durante le mattinate del ricreatorio. inizio alle 17. Ultimo appuntamento per il 2022 dei concerti autunno-inverno del Conservatorio Tartini di Trieste. Nella sala Tartini si terrà l'evento concertistico As One per doppie percussioni con Mia Cristan e Daniel Ciacchi. Leitmotiv della serata, l'opera di Gene Kocinski del 1980, affiancata da un programma contemporaneo, inizio alle 20.30. 10 giovani aspiranti musicisti saliranno questa sera alle 20.30 sul palco del Teatro Comunale per la quinta edizione del Monfalcone Talent Show. La kermesse nasce per cercare nuovi talenti, offrire loro un percorso formativo con esperti del settore musicale e introdurli nel mondo della discografia. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D, che parlerà della Fondazione Dolomiti UNESCO. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente. Nella puntata di oggi faremo un focus sul ruolo dell'azienda sanitaria nella ristorazione scolastica e sui brevetti di volo e di connettività. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. E la puntata di oggi del programma Giovani e Comunicazione di Radio Rai Friuli Venezia Giulia, condotto da Mario Mirasola, andrà in onda dalle 13.30 alle 15 nella sede di Orgorizia dell'Università di Udine. Dal Polo di Santa Chiara alcuni studenti del corso di laurea in relazioni pubbliche passeranno dalla teoria alla pratica, entrando in contatto con il mondo del lavoro ed esperti del settore. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. In regia, per la parte tecnica, Bruno Montevecchi e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.